Elba, 12 settembre 1967. Care Eleuterio, sono qui per l'ultima volta con il mare davanti e mi sembra di leggere sull'acqua un enorme cartello con la parola fine. Una barca a remi si muove lentamente e sembra scivolare sul mare. E io penso che i remi in fondo sono soltanto i cucchiaini per mescolare il mare. E penso anche che sei un bruto e forse anche un sadico. Senza forse. Non si agisce come hai agito tu solo perché io ho organizzato una serata d'addio per gli amici di qui. Sempre tua. Roma, 13 settembre 1967. Inarrestabile sempre mia. È molto bella l'immagine della barca che scivola sull'acqua. Io però preferirei vedere te scivolare nell'acqua, agevolata da una grossa pietra accuratamente legata alle tue snelle caviglie. Dissi di aver organizzato una serata di addio. Una serata che è incominciata a mezzogiorno ed è finita a l'una di notte. Sì, forse non si agisce come ho agito io. In certi casi bisogna agire come Pietro Micca. Eleuterio, ho scritto... La casa è in ordine, ma il salotto si deve essere scolorito. Non è più verde pisella, è bianco. Perché? Elba, 14 settembre 1967. Care Eleuterio, gatticchio vuol dire mezza calzetta di gatto. Il salotto è bianco di sopra perché ci sono le fodere. Levale e sotto lo troverai verde come prima. Sei anche pignolo. Ho detto serata d'addio tanto per dire. Stai lì a contare i minuti, Eleuterio. Se ho fatto un po' di festa, l'ho fatto anche per te, per dimostrare agli amici che quando vuoi sei anche prodigo. Il mare è lì, fermo, come una tavola ferma. Una ragazza sulla spiaggia si sta spalmando la crema solare e io penso che la bottiglietta della crema solare non è che un estintore tascabile. Qui si parla ancora della sfilata di macchine antiche, sempre tua. Roma, 15 settembre 1967. Immortale sempre mia. Sabato sarà il più bel sabato della mia vita. Tornerai a Roma. E non sentirò più parlare di feste del mare, di feste di addio, di organizzazioni. Forse mi parlerai di organizzazioni sindacali, perché ti ho trovato un posto a mezzo servizio. Sarà lunga, ma mi restituirai i soldi spesi per le tue pazzie. E non mi ricordare la faccenda delle macchine antiche. Eleuterio. Ho scritto. Hai ragione. Ho tolto le fodere e il salotto è tornato verde. Ora c'è un altro dramma. Il tappeto. L'ho disteso nel salotto rettangolare. Una volta era perfetta misura, ora è tutto sbagliato. È corto da una parte e dall'altra se ne avanza un pezzo. Perché? Come mai? Elba, 16 settembre 1967. Care Eleuterio, micione, sono qui con il mare alle spalle e lo vedo quando mi volto sempre più lontano. Forse dipenderà dal fatto che sto lentamente camminando verso l'albergo. Peccato tu mi abbia guastato anche l'ultimo giorno di permanenza qui. Ricordo tutto perfettamente. Eravamo come sempre in tranquilla attesa della cena, tu ed io. Parlavamo del più e del meno e... Eleuterio, anche questa villeggiatura è finita. Strano, come tutto ciò che incomincia inevitabilmente finisca. Non è vero. Tu sei incominciata tanto tempo fa e ancora non accenni a finire. Non sei gentile, Eleuterio. Che succederebbe di te se io finirei? Piangissi. Voglio dire che piangerei se tu finissi, ma solo per un po', sai. E bando alle malinconie, Eleuterio, dobbiamo essere allegri per non rovinare tutto. E non mi hai ancora guardata. Come sto, Eleuterio, con questo vestito? Ma come ti sei conciata? Che è quella roba? È un vestito dei primi del Novecento. Ah, ma allora è cattiveria. Fai di tutto per ricordarmi tua madre. No, Eleuterio, è il vestito che indosserò domani alla sfilata delle macchine antiche. Il tuo è in camera. Il mio che? Il tuo vestito dell'epoca. Stoneresti vestito moderno su una macchina antica. Giacca a quadroni, calzoni alla zuava, calzettoni a cannolè e berretto da sportman. Quelli col sottogola, sai? Io dovrei... No, Eleuterio, non dovrei. Dovrai. Sei tu che hai organizzato la festa? Scusa, hai fatto venire le macchine antiche dal museo di Torino. Hai comprato il trofeo per il vincitore. Hai diramato gli inviti per la gara e per la cena. Ora non puoi dire, dovrei. Eleuterio, non fare gli occhi indipendenti. Non guardare con uno a destra e con un altro a sinistra. Non mi piace. Le automobili da Torino, gli inviti a cena. Certo, per la festa di addio. La gente qui cominciava a pensare che sei un brontolone. Hai sempre litigato per una sciocchezza. Ho deciso di riabilitarti. Macchina antica. E chi paga l'affitto, il trasporto e tutto il resto? Stai tranquillo. La tua banca mi ha anticipato l'occorrente. La mia banca? E come hai fatto? Con la doppia firma, Eleuterio. Abbiamo la doppia firma, no? Ho firmato anche per te. Tutto a posto. Vedrai che vincerai la gara. Io non vincerò nessuna gara, perché la gara non si farà. Non ci monterò su quelle macchine. E poi io non lo so nemmeno guidare. Non devi guidare tu, Eleuterio. Ho fatto venire anche gli autisti. Ah, no, No, questo è troppo. Buono, Eleuterio. Metti giù il portiere. Non si tira il portiere d'albergo addosso alle mogli. Aiuto, posa il televisore, scegli. E non ci sarà nemmeno una cena d'addio. Ormai è pagata, Eleuterio. Tanto vale che ci sia. Lo ha detto anche mamma. E dov'è mamma? A Londra, stai tranquillo. Me lo ha detto per telefono. Mi ha dato un sacco di consigli ogni volta che le ho telefonato. E viva la rivoluzione! All'assalto! Tavolina, Eleuterio! Eccolo! Aiuto! Parlate! In guardia, Robespierre! Difenditi! Ricordo tutto con molta chiarezza. Ma sabato, quando verrai per l'ultima volta all'Elba, farò finta di niente, grazie al mio savoir-faire. Ti verrò incontro dolce, sorridente e... Ciao. Ciao, Eleuterio. Bentornato qui. Tieni. Che cos'è? È il trofeo da consegnare al vincitore della gara per macchine antiche. Lo devi consegnare tu. Abbiamo rimandato la cerimonia, ma prima di consegnarlo va pagato, sai, 200.000 lire ed oro.